Viaggio con Cecilia che comincerà il suo tour in giro per l'Italia il 27 gennaio prossimi. Mariangela, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, il film è di Cecilia Mangini e Mariangela Barbanente. Brava. È una composizione a quattro mani. Esatto. Io sono qua adesso con Cecilia, siamo tutte e due molto emozionate perché abbiamo fatto una proiezione del film al Festival dei Popoli come evento di apertura il 30 novembre scorso, ma il 27 al Cinema Eden sarà il vero primo confronto con un pubblico pagante oltretutto. Insomma, siamo in programmazione lì in questa serata di lunedì 20 e poi da lì cominciamo 27. Scusami, hai ragione. Vedi, sono emozionata. Allora Mariangela, presentaci Cecilia per chi ci ascolta, soprattutto chi è Cecilia. Allora, Cecilia è una giovane filmmaker che ha iniziato a lavorare con la macchina da presa più o meno nel 59. Nel 58. Adesso te la passo così ti racconterà dalla sua viva voce la sua biografia, una roba di un paio d'ore. Cecilia, no, ci sei? No, biografia perché non entreremmo nei tempi stabiliti. Piuttosto volevo dire una cosa, lo sì. Voglio dire anche perché Mariangela è molto coinvolta con me in questa faccenda, e cioè praticamente noi non abbiamo voluto fare un film sociologico, abbiamo voluto fare un film in presa diretta con gli eventi, sì, a Taranto e Brindisi, a Taranto soprattutto, dove la magistratura, sostituendosi all'inefficienza della politica, ha dato il via a un risveglio della città, e questo risveglio secondo me potrebbe partire da tanto e dovrebbe essere un'importanza enorme, non solo per il sud Italia così negletto, così scordato, così abbandonato a se stessi, ma anche per tutto il paese, perché non è che né al centro né al nord si viva meglio. Certo. Non è che la situazione politica sia di quelle che ci facciano saltare di gioia, tutt'altro. Sì. Io credo che risvegli come quelli di Taranto sarebbero necessari per mettere un alt molto importante a queste attese magiche del leader carismatico che porta progresso, benessere, così, per virtù sue divine, angeliche, non so come definirle. Senti Cecilia, intanto anche per me tu sei una figura fondamentale, non solo perché sei stata una dei primi documentaristi in Italia, ma anche perché da un punto di vista femminile, che rappresenta un'altra rarità. Adesso il documentario è più diffuso, anche con riconoscimenti importanti, ha vinto il Festival di Venezia, il Festival di Roma, due lavori documentari. Volevo chiederti, Cecilia, questo viaggio che avete fatto con Mariangela, che tipo di viaggio è stato? Appunto, te l'ho spiegato prima, è stato un viaggio alla ricerca di quelle che erano state le disattese nel momento in cui la grande industria calava al sud, sia a Brindisi sia a Taranto, sì. Brindisi con il petrolchimico e a Taranto con l'Ital Chile sembrava garantita la rinascita nel mezzogiorno. Non c'è stata rinascita, anzi, al contrario, abbiamo avuto un disastro ambientale, per cui Brindisi ormai è diventata l'ombra di se stessa, il petrolchimico è praticamente ridotto a una figura anoressica industriale, se posso usare queste immagini. Taranto ci sono 12.000 operai che lottano per affermare il loro diritto a vivere, a lavorare e avere quello che tutti gli esseri umani devono avere, cioè la garanzia che non ci sia la morte per cancro, sì, dietro l'angolo di casa. Ecco, proprio in questo senso, Cecilia, volevo chiedere, sì, la comunità, la cittadinanza, può tornare protagonista del proprio destino? A Taranto ci sono degli indizi che questo sia possibile, che questo loro lo vogliano, che loro abbiano una capacità di ritrovare una democrazia del basso, senza la quale non si va da nessuna parte, sai? Sì. Avete fatto anche incontri importanti, com'è stato il contatto umano? Senti, te lo dice Mariangela, perché se no io parlo troppo. Federico, ripetimi la domanda. Allora, se avete avuto anche importanti contatti umani nel corso di questo viaggio, cosa vi ha lasciato? Intanto ci ha lasciato molte amicizie, voglio sperare, ma soprattutto, come ci diceva Cecilia, gli incontri che abbiamo fatto ci hanno anche un po' fatto ritornare l'entusiasmo nell'impegno politico, direi. Insomma, abbiamo incontrato persone di qualsiasi estrazione, da, ho fatto Simona che è tornata a vivere a Taranto per occuparsi del registro tumori della città, che ha fatto proprio una scelta precisa, lei si stava trasferendo negli Stati Uniti e poi ha fatto marcia indietro e ha detto se non ci vado adesso non ci torno più. A tutti gli operai che abbiamo incontrato, impegnati politicamente e non, e che ci hanno raccontato anche quello che è il loro travaglio, il loro conflitto, perché insomma rimanere senza lavoro in una regione come la Puglia, in una città come Taranto, può essere veramente la fine, e quindi c'è questa speranza che l'Ilva possa essere bonificata, e sappiamo benissimo che è un'industria troppo vecchia per poterlo essere, quindi insomma diciamo che abbiamo incontrato persone che ci hanno arricchito con le loro storie, che ci hanno in qualche modo fatto condividere le difficoltà in cui si muove quella città e quelle città, anzi, perché ci siamo mossi tra Taranto e Brindisi, come ti diceva Cecilia, sì. E sono stati tutti incontri di grandissimo valore. Quanto tempo ha preso questo viaggio, questa avventura? Più o meno l'estate del 2012, sì. Tra sopralluoghi e riprese. Ci siamo mossi tra luglio e la fine di ottobre del 2012. Poi ci ha preso un po' di tempo per il montaggio. Oh. E adesso siamo qua a presentarlo. Bene, ecco, proprio a questo proposito, per la presentazione, dicevamo, da lunedì 27 parte questo tour italiano. Per prima proiezione al Cinema Eden, poi ci trasferiamo a Bologna il 29. Poi abbiamo le proiezioni a cui teniamo di più, quelle in Puglia, e prima Taranto il 3, che è la proiezione più importante, il confronto più importante, lunedì 3 febbraio, poi a Bari il 4, e poi di là seguiranno Brindisi, Parma, Firenze, dove Sergio Staino sta organizzando una proiezione all'Alfieri, torniamo a Roma, e sono tutte date su cui stiamo insomma lavorando e definendo precisamente il calendario. Diciamo che se qualcuno ha voglia di seguirci e capire quando può vedere il film, il modo migliore è la pagina Facebook In Viaggio con Cecilia, e lì ci sono tutte le informazioni in tempo reale. Ecco, proprio questo volevo chiederti, a questo punto ci hai dato tutte le informazioni. Mariangela, è stato un piacere come sempre, e un saluto anche a Cecilia, un abbraccio forte, e ci risentiamo presto. Ciao. Ciao ciao.